Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Gaia Manzini, autrice del romanzo La scomparsa di Lauren Armstrong, pubblicato da Fandango. È un bel romanzo, l'ho trovato molto interessante, dove si intrecciano praticamente le vite di tre donne. Queste tre donne hanno una cosa in comune: ognuna di loro, a suo modo e per ragioni diverse, si sente non autentica, non si sente se stessa. Partiamo dalla protagonista principale, diciamo, del romanzo, anche se diciamo tutte e tre sono abbastanza presenti. Eva è una doppiatrice, sì, di film. Ci vuoi raccontare questo personaggio? Chi è Eva? Eva Loi è una ragazza di 33 anni che è molto appassionata del suo lavoro. Lei doppia esclusivamente un'attrice, una famosa attrice americana, che è la Lauren Armstrong del titolo. E non solo le piace questo lavoro perché in qualche modo soddisfa quelle che sono le sue ambizioni, ma lo ama perché le viene incontro nel suo desiderio di annullare se stessa. Io ho avuto modo di lavorare con qualche doppiatore, qualche doppiatrice, e la cosa che in qualche modo emergeva più spesso era questa: quando ti specializzi soprattutto in uno o due attori, poi in realtà accetti giorno dopo giorno, ora dopo ora, che stai chiuso nella sala di registrazione, che ha un che di uterino, no? di rinascere in un altro corpo. C'è cioè proprio uno scambio anche di personalità, quasi, perché Eva si annulla e sembra quasi vivere, insomma, la vita di Lauren Armstrong, della sua attrice. Sembra vivere la vita di Lauren Armstrong senza, ovviamente, diciamo, la parte glamour che è l'essere una star del cinema, ma è proprio un transfer. Il fatto di ridursi a essere sola voce, come se la voce fosse in realtà una parte evanescente di noi, quando invece non è così, perché vabbè, tu fai radio, quindi forse me lo sai dire. Sì, la voce, insomma, è una la voce è una cosa assolutamente tridimensionale, però lei pensa che in un certo modo stare al buio, non solo nella sala di doppiaggio, ma anche essere contenuta dal corpo di un'altra persona, sia un modo per non esporsi in maniera diretta e dunque difendersi dalla vita. E i motivi poi si scoprono nel libro, cioè poi di base Eva Loi è una persona, un personaggio che si nasconde dalla realtà e da un passato che non ha mai avuto poi il coraggio di affrontare, da un passato tragico suo, ma anche da un rapporto difficile poi con la madre. Esattamente, nella vita di Eva c'è stato un trauma, non diciamo quale. Però questo trauma ha influenzato tantissimo la sua vita emotiva e la sua, sì, vita anche sociale. In che modo l'ha cambiata? Ma allora, questo trauma, che sono in realtà il sovrapporsi di due traumi, però non possiamo dire no, quali sono, però fanno scaturire in lei il banalissimo senso di colpa, che però porta spesso certe persone che hanno vissuto degli eventi veramente traumatici a vergognarsi di esistere. Io volevo che lei avesse questa cosa nel suo passato, perché Eva è un personaggio, a differenza degli altri due, molto difficile da scrivere, perché è un personaggio che si scrive per sottrazione. Non è una donna che decide, che incide sulla sua esistenza, sta con un uomo, insomma, anche lì non è molto protagonista della sua vita. Allora, scrivere questo personaggio vuol dire aggiungere più particolari possibile, però in un vuoto. Allora avevo bisogno che, sentivo questa necessità che all'interno di questa vita, chiamiamola normale, però in realtà ci fosse una ferita pregressa molto forte, che in qualche modo fosse il motivo primigenio di questo vuoto. Eva, tra l'altro, va in crisi nel momento in cui l'attrice che lei doppia, Lauren Armstrong, scompare. Sì. Che cosa provoca in lei questa scomparsa? Come vive la scomparsa? Allora, come dicevamo prima, proprio tutto si parte dall'assunto: mi riduco a sola voce, accetto un altro corpo. Se questo corpo scompare, questa è stata la prima idea del libro, proprio da questa cosa. Il senso di scomparsa. Il senso di scomparsa è il paradosso: se io accetto un altro corpo e questo corpo scompare, cosa succede? Di fatto è come se Eva cominciasse realmente a scomparire, cioè non essere più oggetto di sguardi di nessuno. E allora questa cosa che è difficile da rappresentare, io ho cercato di farla con la somatizzazione della scomparsa. Improvvisamente Eva si risveglia un mattino, non ha ancora saputo che Lauren Armstrong è scomparsa nel nulla, si sveglia e comincia a ad avere dei formicoli, sì, brava, a non sentire delle parti del suo corpo, come quando, no, magari dormiamo sopra un braccio, non sentiamo più il braccio, con una sensazione orrenda, però è reale, no? Non ti senti, non senti, ti solo il tatto dell'altra mano che funziona ancora. E quindi ha questi formicoli, però serve, questo serve perché è come un arco scavallato, diciamo, questo apice, poi lei comincerà invece a dover usare il suo corpo per forza. Abbiamo detto tre donne che hanno in comune un elemento, cioè quello di non sentirsi fino in fondo se stesse. Quindi Eva non si sente se stessa a causa di questo trauma, l'attrice non si sente se stessa perché è un'attrice, quindi è costretta in qualche modo a recitare un altro personaggio. E poi c'è Ella, che è la madre di Eva, un personaggio straordinario che non riesce a sentirsi se stessa perché in qualche modo le convenzioni sociali o un certo carattere l'hanno costretta a dare un'immagine di sé. E questa immagine non è esattamente la sua vera natura, o meglio, al di là di questa patina esteriore c'è una natura anche ribelle in questa donna. Ella è il personaggio che forse io ho amato di più, non perché è il personaggio che trovo che sia più completo, no? Anche per un fatto anagrafico, perché è una persona di una certa età, e forse perché ha un profilo psicologico molto più comune alle persone che possiamo anche incontrare nella nostra vita. Lei è la classica donna perfetta. E io sono molto affascinata dalle dinamiche borghesi, no? Del fatto di avere un aspetto, una facciata impeccabile, un'educazione senza sbavature, e poi in realtà dietro questa cosa si agita dell'altro. Mi è capitato di fermarmi a riflettere spesso, per esempio, sulla bellezza, quanto una bellezza anche esibita può a volte sembrare non solo affascinante ma anche a volte arrogante, e quanto invece spesso molte persone, molte donne, ma anche molti uomini la usano come facciata dietro la quale nascondere se stessi e la propria fragilità, il proprio, quello che poi abbiamo tutti, no? Le nostre ansie. E ella è una persona che a un certo punto deve andare al lago a raggiungere il marito per un weekend, sta per prendere il treno, invece segue un'altra persona e ne prende un altro, e questo treno è un treno che sta andando a Berlino quando cade il muro, quindi nel novembre del 1989, e segue non una persona a caso, segue una donna che si chiama Giulia, che è una donna zoppa. Ma questo particolare, che è un particolare minuscolo del libro, però è una delle prime cose che è nata insieme al libro, perché anche su questo mi è capitato di ragionare. A volte siamo molto attirati, no? In maniera anche morbosa, dalla deformità. A volte però invece siamo attenti soltanto al fatto che la deformità sia una difformità, e quindi una possibilità anche per noi che la guardiamo di essere diversi, non omologati e dunque più liberi. Quindi fondamentalmente ella nell'89, che poi è stato l'anno storico della libertà, prende e va a Berlino, e a Berlino pensa, abbandonando figlia e marito, pensa di poter iniziare una nuova esistenza, addirittura con un nuovo nome, eccetera eccetera. E infatti il muro di Berlino, ma anche proprio il concetto di muro in sé, sono molto presenti in questo romanzo. Grazie a Gaia Manzini, autrice di La scomparsa di Lauren Armstrong, pubblicato da Fandango. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.